Il ciarlatano da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Sempre il mondo fu un pien di vendifrottole che va spacciando le più strane iperboli. L'uno sul palco bravara osa il diavolo e l'un ti stampa sopra un cartellone che egli ti dà dei punti a Cicerone. Un dì costor solea dare ad intendere di possedere l'arte assai difficile di render dotti più massicci zotici. O contadino, o tanghero ignorante, in breve tempo io ve lo cambio in Dante. Signori, sì, dicea, datemi un asino ferrato, ed io più classico vel do di quanti sono all'accademia. Udito questo, un re di buon umore mandò a cercare del grande professore. Egli disse, dottore eccellentissimo, ho nelle stalle un asinel d'Arcadia, che voglio addottrinar nella retorica. Benissimo, risposegli il giullare, vostra altezza non ha che a comandare. Il re gli fa pagare uno stipendio a patto che in 10 anni su una cattedra immettesse la bestia a discutere, che se mancasse all'obbligo annunciato sarebbe il luogo pubblico impiccato. E sarebbe impiccato in luogo pubblico, spacciatamente e senza cerimonie, con appesa alla schiena la retorica che va vendendo come roba onesta e con orecchie d'asin sulla testa. Un cortigian, ridendo in man del giudice, gli disse «Ti vedremo a tempo debito, e deve essere stupendo lo spettacolo d'un uomo sì dotto e di cotanto peso che danza al vento ad una corda appeso. Quando sarai nell'oratorio, un tenero discorso in bello stil cerca di stendere, con l'arte bella delle tue metafore, classico testo che potrà servire ai falsi ciceroni in avvenire. 10 anni, prima che scada il termine sarei morti il re, l'asino o Dio», rispose il ciarlatano e con giudizio. «Per quanto non ci manchi il ben di Dio e si mangi e si beva di gran gusto, su 3 in 10 anni morir uno è giusto». Fine della favola, il ciarlatano. Questa registrazione è di dominio pubblico.